Contro il B. Ciao Luigi. Sì, ti vedo benissimo, Luigi. Innanzitutto grazie che, diciamo, hai accettato per l'invito. Io, diciamo, ho anche dato, Luigi, l'indirizzo tuo che tu adesso mi hai dato, l'ho messo nella nostra, diciamo, chat della disabilità, in modo che se qualcuno si voleva, diciamo, aggiungere. Sì, adesso Luigi vado a dare l'ok e dico che sono già collegato, va bene? In modo che gli avviso un secondo. Aspetta un attimo, allora. Ecco, allora, siamo collegati, ragazzi. Ecco qua. Luigi, io, diciamo, voglio dire, non ti intratterrò molto. Noi praticamente tu hai visto, diciamo, ti abbiamo posto un po' queste domande, un pochettino per avere un aiuto in merito al fatto di poter sapere, sempre per il, diciamo, sia per il nostro tavolo della disabilità, tu sai che, diciamo, stiamo anche partecipando al tavolo del sociale, però adesso nello specifico, diciamo che queste, diciamo, domande erano principalmente rivolte a sapere qualche cosa, diciamo, se voi sapevate qualche cosa, insomma, su questi fondi, sulla disabilità, e poi anche su queste altre domande, diciamo, vedi che mo ce l'ho pure a portata di mano, il fatto sulle delucidazioni, diciamo, sull'osservatorio, più o meno se potevamo partecipare inserendo qualche persona, diciamo, nostra come attivista, e poi le vieni a portare di mano, insomma, non te le ripeto, vai tu un pochettino a ruota libera, ci dici un pochettino tu qualche cosa, insomma. Sì, perché io ho dato, Luigi, diciamo, adesso ho messo il link per il tuo indirizzo, però siccome, diciamo, alcune persone stavano comunque anche impegnate con il lavoro a scuola, come Teresa De Giulio, Angelo Di Cristo, dici? Sì, ti voglio dire pure questo, Luigi, ti voglio dire anche questo, che noi stiamo adesso registrando in streaming tramite Bambuser, in modo che praticamente siamo tranquilli e possiamo mandarlo poi anche le altre persone, se non riescono ad entrare, comunque vedranno la tua registrazione, quindi va bene lo stesso, ok? Quindi vai tu a ruota libera. Certo, vai. Che mi avete posto, sei pronto? Sì, sono pronto, vai. La mia domanda è la disponibilità di fondi a destinare alla disabilità per l'annualità 2014-2015. Ora, su questo, praticamente ho questo foglio, un Sì, attimo, sì. praticamente, allora, in sostanza, sono programma 12.02, interventi per la disabilità, e in questa voce è poi segnato competenza totale 1.333.000 euro, punto 200, e per stanziamenti di competenza 2014, mentre stanziamenti di competenza 2015 c'è 1.263.000, punto 600, di competenza dal 2016 1.221.100. Ora, per questo, per quanto riguarda ecco, i finanziamenti, sì. Sulla base diciamo, di questa missione, insomma, di questo programma. Ora, come verranno poi utilizzati? Quello poi è una fase successiva, significa diciamo, vedere un po' come verrà aggiunto, come verrà il consiglio. Ora, diciamo più che il discorso dei fondi, quindi, cioè del quantum, secondo me è importante capire il modus, cioè come verranno impiegate quelle risorse. Ad esempio, in Commissione Politiche Sociali era al vaglio, ed è stata licenziata la Commissione, anche se su questo noi siamo astenuti per tutta una serie di motivi, un provvedimento che si chiama Il Dopo di Noi, che sì. Secondo noi invece aveva forti criticità, anche perché infatti la visione è stata, non sono state ascoltate diciamo, le associazioni, infatti varie associazioni di tanti hanno fatto anche dei comunicati stampa, in cui facevo riferimento al fatto che una legge così importante non è stata diciamo, elaborata in un assieme di audizioni, cioè è stata diciamo, migliorata assieme di audizioni con il mondo dell'associazionismo. E, oltre comunque avere gli aspetti critici proprio nel mezzo, e lì ci sono dei finanziamenti dal punto di vista finanziario, quindi nella voce poi norma finanziaria che riguarda appunto la copertura. Quindi secondo me non è tanto capire appunto quanti fondi vengono stanziati, ma più che altro attraverso su cosa, poi su come verranno stanziati. Il provvedimento ad esempio è stato già licenziato in commissione e arriverà in consiglio. Noi siamo già pronti con tutta una serie di emendamenti. Sì? Uno in particolar modo a cui ci tenevo era quello dell'anagrafe digitale, nel senso che attualmente non c'è un'anagrafe digitale, cioè nel senso digitale come modalità tramite la quale i dati vengono iscritti nell'anagrafe, nel senso che io mi immagino come sarebbe utile che chi è il tutore disabile per la disabilità al 100%, quel dato, diciamo, l'ordinamento giuridico prevede appunto una figura del genitore, a soggetto come essere genitori o il mancante di un tutore, come terza parte, ma infatti questa persona dovrebbe provvedere in via tutti i dati concernenti appunto se hai quali disabilità hai, i tempi terapeutici, i tempi di disabilità, le terapie a cui sottoposto, tutti questi dati in questa anagrafe, in modo da avere anche la mappatura di quelle che sono i ritardi sul territorio, sì. E quindi poter intervenire anche in modo più efficiente e affinché gli interventi siano un po' più mirati, anche territorialmente parlando, sarebbe anche in grado di capire anche quali sono poi di avere diciamo, il monitoraggio su queste esigenze proprio i disabili tramite questa anagrafe. Ed era quindi una informa digitale che significa tutto online, all'insieme della più ampia sburocratizzazione, digitalizzazione pubblica amministrazione, e in modo che tutto venga gestito tramite servizi online, ovviamente istituito presso la Regione Campania. Questo era diciamo, il merito di uno degli emendamenti che abbiamo predisposto rispetto a questa legge. E ovviamente li discuteremo in Consiglio regionale e lì poi si aprirà la votazione. E, diciamo, noi subordiniamo ovviamente il voto alla legge rispetto alla produzione di questi emendamenti, perché secondo noi sono veramente migliorativi rispetto all'impianto. Poi la seconda domanda diciamo, è un po' la risposta anche prima quando dicevi. E la risposta a un piano di azione progettuale relativo alle problematiche di disabilità per poter accedere a fondi europei per l'annualità successiva al 2014-2015. Il fatto che tu fai riferimento a un'annualità successiva, e più che altro, diciamo, questo secondo me riguarda proprio la giunta, cioè la predisposizione dei bandi diciamo, in modo che si possa presentare i progetti per intercettare i fondi. Questo riguarda un po' più diciamo, l'aspetto di giunta regionale. È molto complicato diciamo queste informazioni perché quando viene predisposto il bando viene pubblicato, mentre la formulazione del bando, quello invece diciamo operano un po' più le unità dirigenziali, cioè proprio la burocrazia regionale, quindi noi siamo in grado di sapere, ecco, più che altro i bandi che escono fuori, diciamo noi come accesso alle informazioni. Almeno questo è lo stato di informazione che io ho dopo 4 mesi di consigliatura, può darsi che poi man mano acquisiremo più informazioni, maggiore esperienza, riusciremo a capire informazioni diverse, però su questo ho trovato un po' di difficoltà a rispondere. Diversamente invece le altre, la terza domanda era, è stata proposta una mozione per l'arrivamento del piano PEPA, prevista dal 32, legge 41-1986 e l'articolo 24, comma 9, la legge 104-92. Ora, in merito noi non abbiamo ancora presentato una mozione, questo però poi riguarda in particolar modo anche diciamo, la commissione urbanistica, che è la quarta, quindi secondo me si dovrebbe lavorare di concerto. Quindi coinvolgere anche quella commissione praticamente. Eh? coinvolgere anche questa commissione urbanistica praticamente. Eh sì, perché praticamente comunque riguarda, hanno passato varie direzioni, quindi sì, diciamo, i motivi sono sociali, però poi non è finisci dal punto di vista urbanistico, penso che riguardi comunque, allora, non è che i progetti legge, spesso accade che tipo un progetto è all'esame di una commissione, però poi ne posso parere di altri, perché comunque riguarda a più ampie materie. E secondo me su questo ci dobbiamo lavorare, e io spero che grazie al tavolo politiche sociali, che poi sta lavorando tanto, sì, l'auspicio che ci mettiamo, poi la scriviamo noi in una mozione in merito, quindi noi attualmente non ce l'abbiamo ancora. Ma questo cioè, lo potete fare praticamente, Luigi, cioè, perché io so che questi piani verba, diciamo, è un qualche cosa cui tutti i comuni, c'è cioè una legge nazionale cui tutti i comuni si dovrebbero attenere, ma voi diciamo come regione invece anche potete intervenire da questo punto di vista? Guarda, allora una mozione consiliare non è altro che una, quando la approva il consiglio regionale, è un impegno del governo regionale a, ora questo impegno secondo me può essere, potrebbe essere, questo poi lo vediamo con i legislativi, ce ne vediamo. Sì. La consigliere regionale è quella dell'indirizzo politico, cioè, e poi dopodiché noi abbiamo uno staff di tecnici legislativi che hanno il compito di tradurre questo indirizzo in atti. Ora, se noi decidiamo che l'indirizzo politico, e penso che sia abbastanza condiviso, sia quello dell'adeguamento dei comuni rispetto a queste leggi nazionali, sì, quindi a rimuovere barriere architettoniche, noi diamo questo indirizzo. Dopodiché, stiamo con i legislativi, e io dopo avrò un briefing con loro, proprio sugli emendamenti di stabilità rispetto sì, alla proposta di legge di dicevo prima, e gli pongo la questione se sia possibile attuare o no una mozione di questo tipo e impegnare il governo regionale, ad esempio, a sollecitare i comuni rispetto all'adempimento della legge nazionale. Cioè, la mozione diciamo è questo, quindi non proposta di legge, ma una mozione diretta al governo regionale. Su questo poi, stessa in serata, ti scrivo a te sì, e lo integri come commento rispetto al video registrato, quindi come integrazione rispetto alla risposta. Certo. Okay. Ma tu, anche tu Luigi, voglio dire, nel momento in cui poi dopo pubblicherò anche il video, se anche tu vuoi integrare, perché ovviamente avendo tu comunque partecipato e dato queste risposte, quindi magari ti ricordi anche, voglio dire, meglio, come ti dico, se vuoi dare un certo indirizzo, no? Nel dare questa linearità a questa tua discussione, tu ovviamente con tranquillità, cioè, aggiungi tutto ciò che può essere, diciamo, di aiuto a questa discussione, ecco. Vabbè, ma noi siamo prima di tutto attivisti, quindi è importante che con voi collaboriamo e che ci dia una mano. Ok, mi sono insegnato questa cosa e dopo la vado a approfondire nel merito. Sì. Appena siamo qua, io poi noi c'è riunione con il gruppo e poi facciamo una vado a fare per i tecnici. Allora, quarta domanda, delle citazioni e informazione sul lavoro svolto osservatorio sulla disabilità, organo istituzionale della Regione Campania e poi integrazione dei componenti. Ora, da come ci ho acquisito un po' di informazioni, sì, tenendo conto che mi piace non aver approfondito come doveva essere, anche perché comunque abbiamo avuto un po' un periodo molto particolare, insomma, il Consiglio regionale, per come si è svolto, però ci avete seguito, ci ha tolto parecchio tempo, l'organizzazione e tutto, però ho cercato di dare tutta risposta. Allora, l'osservatorio sulla disabilità è stato istituito con delibera della Giunta regionale 346 dell'8 agosto 2014. Si è insediato in data 19 gennaio 2015, ma ci sono stati solo due incontri con delibera 343 del 2015 che l'Istituto non aveva pubblicato. Sta provvedendo a rimodulare l'osservatorio. Luigi, ti volevo dire una cosa in merito al fatto dell'osservatorio. Quando ti ricordi, quando voi faceste la manifestazione sul DDL Scuola, noi ci trovavamo anche a parlare con Valeria Ciarambino, e le domandammo, diciamo, un po' qualcosina su questo fatto dell'osservatorio, e lei insomma comunque ci diede un pochettino a capire in linea generale, cioè, come si muoveva questo osservatorio, nel senso che comunque era, tra virgolette, più o meno un raccoglitore, come posso dire, diciamo tra virgolette di scambio politico, cioè non è che aveva quella rilevanza che si propone poi in realtà all'osservatorio, cioè in effetti all'interno c'erano sempre persone legate comunque o a partiti, capito, come un po' così mi viene a capire Valeria. Ho non lo so, vabbè, questo voi ne avete parlato con Valeria, sì, io posso dire. Accendo un poco così a dire, guarda, c'è cioè, comunque questa struttura un po' com'è fatta, cioè, comunque è composta da persone che più o meno stanno un po' messe là dai partiti, cioè non è che c'erano magari c'era un rapporto tra l'osservatorio, le associazioni, i cittadini, almeno così mi sembra diciamo, di ricordare questo accenno di Valeria, però. No, questo ne ha parlato con Valeria, io non c'ero. Quello cioè, che è chiaro è che questo osservatorio attualmente è in fase di rimodulazione, quindi ne attendiamo di capire come verrà rimodulato e poi ci adegueremo. Ora, noi tra l'altro stiamo ancora capendo, tipo per esempio, che ruolo hanno i gruppi consigliari rispetto a questi organismi, cioè a seconda che possono essere indicate persone, diciamo, del gruppo consigliare in quanto per esempio membri di commissione a poter partecipare come uditori o a diritti di voto in questi osservatori, cioè noi stiamo ancora in fase di approfondimento rispetto a questo. Gennaro, mi senti ancora? Mi sento, stiamo pure registrando. No, abbiamo perso un attimo il video, ti vedo perfettamente e ti sento, dici. Io stavo proponendo questa cosa anche perché in uno degli emendamenti che avevo pensato rispetto alla proposta sul dopo di noi, quella di cui ti dicevo prima, sì, era anche un comitato di sorveglianza rispetto poi all'attuazione, diciamo, di contenuto di questa legge e che prevedeva appunto nella sua composizione anche rappresentanti delle associazioni disabili, però poi aprire, diciamo, il capitolo di come individuare queste associazioni, diciamo, il metodo per inserire alcuni rappresentanti, quindi è tutto anche work in progress, questo è un sorveglianza, io ho pensato appunto con un corretto di sorveglianza ad hoc rispetto a quanto di quella legge, e nonostante esista già questo osservatorio, che però ho capito ha un carattere molto generale, però io penso che il tema di disabilità sia in realtà non un tema, ma siano tanti temi in uno, e quindi io ho pensato che forse sia più opportuno creare, diciamo, gli osservatori un po' più mirati, sì, rispetto a questo specifico problema rispetto ad un altro, anziché un unico, diciamo, grande tema che però poi, secondo me, perdi poi di... E diventa dispersivo, tu dici invece fare delle proprio cose settoriali, insomma. Più per il carattere settoriale, insomma, di un osservatorio che, diciamo, guardi un tema specifico, perché poi, parliamoci chiaro, guardi di disabilità, non è che stia dicendo un tema, cioè sono tanti aspetti, certo. Parliamo del trattamento sanitario, parliamo delle barriere architettoniche, cioè passiamo dall'ambito sanitario all'ambito urbanistico. No, si parte tra sport e via discorrendo, diciamo che sta un pochettino in vari settori il problema della disabilità, lui. Sì, e quindi diciamo questa è un po' la mia idea, ahimè. Poi hai fatto quinta domanda. Ci sono fondi specifici da destinare all'inserimento lavorativo dei diversamente abili. Ora, su questo la risposta, diciamo, un po' che abbiamo trovato insieme ai tecnici è stata che il Fondo regionale per l'occupazione disabili, di cui l'articolo 14 della numero 1-6899, in titolo denominato fondo, è stato costituito con legge regionale 18-2000, articolo 45, che è stata modificato legge regionale 14-98, articolo 15-bis e articolo 15-ter, che istituisce il comitato successivo del Fondo regionale per l'occupazione disabili. Le leggi di bilancio regionale sono definiti pertinenti capitoli di entrata assegnati al Ministero del Lavoro e di Previdenza Sociale alle regioni, ai sensi dell'articolo 13 della legge 6899 e le entrate derivanti dalle erogazioni sanzioni amministrative e dalla riscossione dei contributi esonerativi di quegli articoli 5 e 15 della legge, quindi ci sta ed è il seguente. Quindi su questo io vi consiglierei di orare per capire. Diciamo che c'è anche la mano, noi capiamo un po' come viene spesso, quindi questo fondo regionale per l'occupazione disabili, vi ho messo un po' di riferimenti normativi, io poi questo documento ve lo mando per email, quindi avete una traduzione, diciamo, più scritta, anche perché ci sono riferimenti normativi e non si capiscono bene, quindi vi mando tutto tramite email, così diciamo io potete... Sì, che io poi... Certo, ma poi Luigi lo possiamo direttamente anche caricare nella sezione file... diciamo della pagina Facebook della disabilità, in modo che sta sempre a disposizione, che anche tu se lo devi eventualmente ulteriormente o integrare lo tieni anche tu sempre a disposizione. Comunque è importante adesso, diciamo, queste un po' erano le 5 domande che mi avete mandato. Sì, era un po' in generale per stabilire un po', per avere un po' un aiuto, e poi tanto più Luigi era anche funzionale al fatto che stando anche lavorando un po' con questi tavoli sul sociale per quanto riguarda poi dopo le prossime, diciamo, il programma sulle comunali su Napoli. Allora noi, diciamo, un po' con queste domande, inerenti un po' questi fondi, volevamo un po' avere un ragguaglio e poi chiederemo anche invece nella sezione bilancio, sul tavolo del bilancio sul Comune di Napoli, per poi andare noi a poter chiudere, diciamo, il nostro tavolo della disabilità, avendo già comunque anche questo ulteriore bagaglio che tu adesso ci hai dato, hai capito? Che ovviamente non sarà Luigi, questo è un programma definitivo, cioè queste sono tutte una serie di informazioni che praticamente sta venendo fuori, insieme a queste nostre un poco idee, dico che ti posso dire, io sto portando avanti il discorso, il fatto dell'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso questi piani DEBA. Chi invece si sta interessando del problema della disabilità legata alla scuola, chi alla parte, diciamo, sanitaria assistenziale. Insomma, stiamo cercando un po' ognuno di noi di dare dei contributi al fine che poi queste bozze che stiamo andando a creare verranno poi integrate in questo, quello che dovrebbe essere poi un programma generale del guidi, diciamo, del movimento. Almeno questo per quanto riguarda il comparto, te l'ho detto, delle prossime comunali a Napoli. Quindi questo aiuto tuo per noi, diciamo, è ottimo, perché comunque ci consentirà di dire ok, la situazione inerente a questi fondi sta in questo modo qua, e quindi noi lo possiamo mettere in questo file PDF a chiusura, capito? Oltre a questo tuo contributo, Luigi, diciamo, non credo che ci sarà il tempo tecnico per poterlo fare, ma sarebbe stato utile anche contattare, diciamo, i portavoce del Parlamento europeo, in modo che si sarebbe aggiunta anche la loro voce per fare ancora un'ulteriore cosa con me, ma comunque penso che nulla toglie che comunque ci possiamo approfondire. E poi, come hai detto tu, anche, non è che si esaurisce qua adesso, cioè tu comunque ci hai dato già adesso, come posso dire, un là di approfondimento. E poi ci sarà comunque un interscambio che andremo sempre, diciamo, ad interagire. Cioè, noi cercheremo di aiutare voi nel vedere, insomma, un po' questi fondi dove vanno, dove non vanno, dov'è, e voi, insomma, cercare di fare questo lavoro che hai detto tu anche a livello di presentazione, di mozione, nel momento in cui vi sarete stabiliti a livello anche diciamo, della parte legislativa che vi deve, diciamo, supportare e aiutare. Si andranno anche a definire meglio un pochettino anche queste situazioni, trovi? Io ti lascio con due cose. Allora, ora vado a verificare il merito di quella mozione sulla partita oggi, lavoro un po', tanto che oggi Certo, sto qui con aspetta che Cristina se... Leoni, queste qua le 8:30 della sera che fanno un incontro sul femminicidio, tra l'altro interessante, quindi sondaggio nella regione. E un'altra cosa, quando fate voi i tavoli di confronto del programma comunale in cui vi danno, Certo. comunque, cioè, almeno io quindi quando volete posso raccogliere poi delle idee da poter ricevere a mano. Certo. Io veramente penso che sia importante mantenere un buon raccordo rispetto ai meetup, anche perché tra l'altro a Napoli sta sviluppando comunque un bel programma partecipato al basso. Sì, ma esatto. Ma tu Luigi, vedi che appena si è avuta, diciamo, l'opportunità e l'occasione comunque di coinvolgerti, perché noi comunque già avevamo intenzione comunque questo incontro di poterlo fare. Poi dopo, sempre causa per il fatto del maltempo, si è optato per questa soluzione che comunque credo che sia la più ottimale, tra l'altro, perché magari, insomma, siamo tutti quanti riparati e siamo, diciamo, tranquilli. È andato bene così, benissimo così. Poi con la registrazione, ma praticamente anche loro potranno ascoltare quello che tu hai detto, e quindi, bueno, anche se siamo stati, non è importante che siamo stati soltanto e te in comunicazione, perché comunque poi loro si informeranno ascoltando e vedendo il video, capito Luigi? Vabbè, Gennaro, allora ti lascio, vado a fare queste parole, mettermi un po' a lavoro su questa mozione, poi vi faccio sapere nel giro di un paio di giorni, vado a capire un po'. Va bene, E Luigi, anche se sarebbe tanto attivista, se interessata alla questione del FEPA, anche i consigli comunali, Certo. e se Marianella ci sarà molto esposito, che è consigliere comunale, Movimento 5 Stelle, che si è sempre c'è uno dei tanti, giusto per citare, mi viene in mente così. Sì. Sono parecchie persone che diciamo un poco sono, perché come giustamente hai detto tu, è una tematica, cioè comunque molto vasta, che comunque poi va a toccare anche le politiche sociali, l'urbanistica, la sanità, e quindi comunque ci sono molte persone che sono comunque sensibili a questo tema, e quindi insomma potremo cercare di fare cioè, un bel lavoro così in senso di collaborazione, sì. Sempre alla fine lo si fa, Luigi, per la finalità insomma di poter aiutare la collettività in generale. Questo poi dopo è la sintesi di tutto. Vabbè, Luigi, io ti ringrazio diciamo per la tua partecipazione, e ci sentiamo e ti aggiorno e ci aggiorniamo alla prossima. E questo materiale che tu hai detto, Luigi, vedi tu se lo vuoi caricare direttamente sulla pagina di Disabilità, oppure me lo invii via email e io lo pubblico. E quando pubblico anche il video, se tu poi devi integrare delle cose diciamo che vai a rivedere un po' quello che hai detto, vai con tranquillità, d'accordo? Appena la grande, siamo tra amici. Ti abbraccio, ciao Luigi, ciao, un saluto a tutti, ciao bello, ciao.